59. Farinata gialla di magro. Come minestra ordinaria si può collocare fra le buone. Mettete al fuoco con acqua proporzionata 4 decilitri di fagioli bianchi, che tanti bastano per 4 persone. Dopo cotti, passateli dall'ostaccio e il passato mescolatelo nella broda degli stessi fagioli e nella medesima mettete a bollire per 2 ore circa mezza palla tritata di cavolo bianco o verzotto che condirete con sale, pepe e foglie di pepolino, detto altrimenti timo. Ponete un tegame al fuoco con olio a buona misura e 2 spicchi d'aglio interi sbucciati. Quando questi saranno ben rosolati, gettateli via e aggiungete all'olio sugo di pomodoro o conserva sciolta nell'acqua e anche qui un altro poco di sale e pepe bollito che abbia alquanto. Versate anche questo condimento nella pentola ove la broda e il cavolo. Per ultimo, quando questo sarà cotto, versate con una mano, a poco per volta, la farina di gran turco. Con l'altra mescolate bene, onde non si formino bozzoli, e giunta che sia a una certa consistenza, cioè alquanto liquida, fatela bollire ancora un poco e servitela.